Link fra poco darà vita a un presidio sotto il rettorato. Quali sono le ragioni? Ok, abbiamo deciso di organizzare un presidio contro la chiusura degli spazi studenteschi. Infatti da tempo l'Ateneo ha pianificato la chiusura di tutti gli spazi assegnati alle associazioni studentesche senza dare delle certezze sulla disponibilità di altri spazi idonei. E sono spazi che chiaramente non rappresentano solamente le sedi delle associazioni, ma che nel tempo hanno costruito una storia e un'identità forte, dagli spazi femministi come quello della Mala Consiglia, la consultoria studentesca autogestita, alle aule studio autogestite. Diciamo che questi sono luoghi che hanno caratterizzato il nostro Ateneo, l'Ateneo di Bologna, e che comunque l'intera comunità accademica rischia di perdere. E quindi crediamo che gli avvisi di sfratto che questi spazi hanno ricevuto nelle scorse settimane siano, come dire, una presa di posizione inaccettabile da parte della governanza universitaria, che mira ad eliminare comunque spazi di partecipazione e aggregazione. Per questo noi diciamo abbiamo deciso di dare un segnale all'università organizzando questo presidio. Abbiamo scritto anche una lettera al rettore, chiaramente facendo rete con tutte le altre associazioni e le altre realtà che si trovano nella stessa condizione nostra, chiaramente con l'obiettivo di cercare anche insieme all'Ateneo delle soluzioni di più lungo periodo che valorizzino anche le diverse specificità di ogni progetto aggregativo che è legato per uno spazio fisico. Se posto tra gli spazi che è stato fortemente attaccato nelle ultime settimane e che rischia di chiudere, c'è la consultoria studentesca autogestita, la Mala Consiglia, che è appunto uno spazio politico transfemminista che insieme al collettivo La Mala Education abbiamo aperto l'anno scorso, nell'ottobre del 2019, e che è un progetto che serve chiaramente tanto alla comunità studentesca, e che appunto in questo periodo, anche durante la pandemia, ha fornito un sostegno concreto e tra pari alle studentesse e agli studenti dell'università, creando uno sportello sia in presenza e poi chiaramente durante la pandemia telefonico, ma anche organizzando laboratori e incontri di reindirizzamento con altre realtà cittadine che si sono attivate in questi anni sui temi del contrasto alla violenza di genere sulle donne. Certo, ecco, ti volevo chiedere se, come dire, l'università come giustifica questo passo indietro, cioè c'entra il Covid oppure insomma le ragioni ve le ha spiegate? Sì, diciamo che da tempo comunque l'università ha in mente di chiudere i singoli spazi e far trasferire tutti questi spazi in una maxi casa delle associazioni all'ex Veneta. Quindi il progetto, diciamo, è nato da un po' di tempo. Il Covid in realtà ha accelerato questo processo di chiusura progressiva degli spazi, per cui anche strumentalizzando, se vogliamo, l'emergenza Covid, cioè, come dire, si è pensato di accelerare la chiusura di questi spazi con poi il progetto di trasferire tutte le realtà studentesche in un unico luogo fisico. Chiaramente noi crediamo che anche per valorizzare quelle che sono le singole esperienze, ma anche le singole specificità, non sia giusto, come dire, trovare una casa in un unico luogo, ed è per questo che anche quello che chiediamo alla governance, anche tramite questo presidio e tramite altre attivazioni che faremo in futuro, è quello di trovare delle soluzioni strutturali, degli spazi singoli per tutte le associazioni che possano anche poi valorizzare e cioè, come dire, essere idonei e adatti a quelle che sono le specificità dei vari percorsi politici e di aggregazione che ogni associazione fa nei propri spazi.